Questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola. È così che faccio resistenza, più di una volta sono stato in presidenza. Drin drin drin ricreazione, esco fuori a fan cannone, ricreazione finish e quindi poi risuona. Cazzo questa erba è proprio buona, e se n'è finita fa lo stesso, finisco di fumare dentro al cesso. Questa è proprio una rota, rientro in classe, ho preso un'altra nota. Poi in classe faccio sempre tardi, resto giù a parlare con le tipe degli altri che ci vogliono provare, così trovo nuove cose da fare. E dopo più di una bocciatura sono arrivato all'anno e chiusura. Dai è bella, presa bene, un'altra rima che mi viene. Questa base è proprio bella, come un 6 sulla pagella. E mi chiedo cosa sta di quella, quella del diritto c'ha la faccia da porcella, e c'ha la testa che mi girano le stelle, me vorrei fare pure le bidelle. Questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola. Vado veloce, corsa campestre, seconda strofa, secondo quadrimestre, aprite le finestre, c'è aria viziata, qualcuno se dia una bella lavata, così poi entra aria da fuori, dalla cucina provengono gli odori buoni. Ora debuca, andiamo a fa la canna de borbuca, bella gente arriva attirata dal profumo, cosa vuoi che sia, so io che fumo, è così, e succo di brutto, è arrivata l'ora del panino al prosciutto, fame chimica che ti divora, stiamo soli in seconda ora, con le giolle orba bonda, te guardo strano come la Gioconda. E così dopo che mi sono sondato, rientri in aula un po' smastrato, sì però mi devo far interrogare, è il momento che mi devo riaccapare, parlo lento come fossi un nonno, me stessa una chiude, l'occhi dal sonno, ma poi sveglio, devo restare, mano sulla bocca e mi metto a sbadigliare. Cazzo, porco dio, sta scuola c'ha proprio rotti i coglioni, questi compiti al pomeriggio, esci ai 2:15, se ne può proprio più, porco dio, meno male che sta arrivato all'ultimo anno, al quinto, mannaggia al papa. Questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola. E pa' scuola, a volte sbalestri, mo hanno diviso l'anno intero trimestri, ancora più pagiali i professori fanno festa, interrogazioni qua ci viene il mal di testa, e qui c'è sta anche la presa male, una pagella arriva proprio prima del Natale, che male, meno regali, la mamma non mi compra i nuovi stivali di pelle, che palle ste novelle, non me va proprio di studiarle, e qui adesso vi colpisco basso, ora de buco fate un'ora di ripasso, quella può essere un'occasione per arrivare tranqui alla promozione, e per sta scuola si pagano le tasse, faccio questa strofa quando sto in classe, ora di ristorazione, il pro sta spiegando tecniche di produzione, e fuori piove e papà non smette, io penso al freestyle e alle tecniche perfette, speriamo però che de piove poi smetta, che sono motorino e se piove è una disdetta, ora però non è questo il problema, è la terza ora e si parte con il tema. Questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola, questa è per chi va a scuola. Senti come rimo, rimo veloce, sta cazzo di scuola ci ha messo in croce, come sigarette alla salute nuoce, cazzo 7 anni è cambiata la mia voce, sto scazzato, male ve fisso, fortuna non levato, almeno il crocifisso è pallosa, come la vendemmia, appena entro, parte la bestemmia, Dio. E poi i bagni, quanto fanno schifo, è già tanto, se non ti viene il tifo, certa gente manco tira lo sciapone, nei gabinetti stessi ostriciate de marrone, il bagno ti fuma de fretta, bagno uguale pausa sigaretta, questa è una vera disdetta, quando c'è sto io, c'è sto un padre beta, c'è chi piscia fuori dalla tazza, e chi fa fuori pure tutta la scagazza, pensa che santo, fa chi va a pulire, total rispetto, ve lo devo dire, cazzo ve lo dico e non me ne vanto, dentro a scuola c'è sta pure l'amianto, l'importante è tenere gli occhi aperti, ed anche a scuola molte volte ti diverti. Sì, come no?